כל הנביא מישהו עם קמינה שופרי בושקי פרפונגי נרשר קר פער דנדו עם שום מישון שברישיה וכל לטשטן בדרש הוא ענדה וכל לטשטן בדרש הוא ענדה דודו דקול בו מישו אינדור מישה אידר יפוקוש כו מישו השוניה che strano ole sto posto qua sento cantar dei butele della sento cantar dei butele della ecco che pian dal canto mi fo guida rivo su un pra impaurido vedo che e tutti là tutti a cantar canzoni strane, parole che non so canzoni strane, parole che non so ecco che un buteletto vien da me sempre cantando e mi dà la mano Venemo in su Alti nel cielo Fora dal bosco e la guerra ne avarda Fora dal bosco e la guerra ne avarda Cimbri guerrieri estas termina Un fiume di sangue l'esta riversa Disperazione Tra donne e fiori Scappa via là nel bosco suo Verso la morte barca tarpa cera